I lavori di domani di Anna Marino. Ci sono diverse professioni come l'analista data science e big data che in questo momento devono essere assolutamente guardate con occhi diversi, gli occhi non solo del presente ma anche quelli del futuro, perché questo è il tempo in cui informarsi per guardare anche a quello che si potrà fare in futuro. E ci sono gli enti, associazioni, scuole che continuano anche in questo momento di emergenza a dare formazione e soprattutto formazione online. Questo è assolutamente il momento di sfruttare il tempo che abbiamo in più, come un terzo tempo del rugby, per dare una spinta al nostro futuro. Tra i compiti dell'analista data science e big data ci sono quelli di organizzare e strutturare i dati in formati idonei per l'analisi e l'interpretazione, elaborarli tramite strumenti statistici e tecnologici, estrapolare dai dati trend e informazioni rilevanti, visualizzare i dati per semplificare la comprensione delle informazioni. E noi partiamo proprio da qui, da questo nuovo lavoro e dai suoi compiti, per scoprire un ventaglio di opportunità di formarsi che è solo la punta di diamante di molti lavori di domani, di cui vogliamo parlare con Antonio Ragusa, fondatore della Rome Business School. Quali sono le professioni, oltre all'analista data science e big data, che in questo momento possiamo prendere e portare verso il futuro? Benvenuto. Buongiorno, ci sono nuove professioni particolarmente richieste oggi, e insomma la figura del data analyst, detto anche business analyst o data science manager, sono particolarmente richieste per due motivi, direi, principali. Uno, intanto, perché un po' tutte le organizzazioni e le aziende, ma anche le organizzazioni non profit, stanno andando incontro a quella che chiamiamo la rivoluzione digitale, la digital transformation, per cui tutti un po' i processi organizzativi e decisionali si fondano su sistemi informatici, e quindi c'è una domanda crescente da questo punto di vista, ma al tempo stesso da parte dell'offerta c'è una carenza di professionalità legata anche alle gap formativi, per cui come organizzazione della formazione noi come Rome Business School ma anche altri istituti stanno cercando di dare un contributo proprio in questo senso, quindi preparare i giovani ma anche meno giovani ad affrontare queste sfide, a incontrare una domanda di lavoro crescente. In che cosa consistono i nuovi lavori più gettonati dal suo punto di vista privilegiato come fondatore della Rome Business School, e soprattutto voi come provvedete alla loro formazione? Il trend principale è quello della crescita esponenziale della domanda relativa alle professioni cosiddette STEM, quindi l'acronimo inglese che riassume Science, Technology, Engineering e Mathematics, quindi termine che indica fondamentalmente un po' le discipline scientifico-tecnologiche legate alla scienza, alla tecnologia, all'ingegneria e la matematica. Tutto questo si abbraccia, naturalmente si lega anche all'attività di business, e quindi una business school come la Rome Business School collega un po' questi mondi scientifici e tecnologici con offerte formative, ad esempio legate proprio alla figura del data science manager specialist, quindi ad esempio abbiamo proprio varato un master in data science management che serve a formare quindi gli specialisti del settore. Come anticipava, sono figure che hanno, diciamo, la responsabilità ormai vitale per il business di anzitutto trovare le informazioni rilevanti e utili per il business stesso, interpretarle correttamente, collocarle, localizzarle, diciamo, depositarle in database ben organizzati, e poi, ultimo ma non per ultimo come importanza, fare dei report, delle presentazioni strutturate e utili per il management, perché alla fine tutto questo lavoro di raccolta e analisi dei dati deve avere un obiettivo finale, quello di far prendere decisioni corrette a livello manageriale. Certo, perché il lavoro che è il nuovo lavoro di domani, ma il nuovo lavoro anche di oggi, deve essere organizzato da delle persone che gestiscono e organizzano il lavoro, che sappiano farlo, e certe volte i manager sono un po' più indietro rispetto ai nuovi lavori che emergono. Quale formazione ha seguito e come mai è così update lei? La mia formazione è umanismo, maturità classica, poi giurisprudenza. Dopo la laurea mi sono un po' specializzato in marketing, ho fatto dei corsi nel Regno Unito, poi ho fatto un Master of Business Administration sempre nel Regno Unito, quindi diciamo ho sviluppato una formazione di natura manageriale ad ampio raggio, quindi dopo una carriera in aziende, sia italiane che internazionale, insomma mi sono un po' proiettato verso l'area imprenditoriale nel settore dell'education. Qual è però, in relazione alla sua formazione e alla sua esperienza, la forchetta di guadagno per queste nuove figure che devono essere gestite bene, ma devono anche essere attrattive e attratte, e che allora, a seconda della seniority, guadagnano in modo diverso? Innanzitutto è vero che una formazione specialistica dà un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro, perché sicuramente il datore di lavoro, le aziende, le organizzazioni che cercano le figure, assolutamente danno una preferenza a chi può presentarti con un curriculum, un master specialistico nel settore. In secondo luogo, il vantaggio competitivo è dato sicuramente dal vantaggio di natura salariale, perché ad esempio un data scientist di prima assunzione, se formato e se specializzato specificamente nel settore, può già entrare con un entry level intorno ai 30.000 euro, dopo 2 anni di esperienza arriva già ai 40-50.000 euro, superati i 5, insomma, si proietta dai 60.000 euro in su. Molto importante dare indicazioni su dove possono trovare la formazione, anche online, se può citare anche il suo link, per fare un upgrade per i giovani, ma anche per chi vuole reinventarsi in questo momento, anche per il futuro. In Italia non sono moltissimi gli istituti che offrono, diciamo, una formazione specifica sul data science management. Sicuramente la Rome Business School è quella un po' più avanzata delle altre, anche perché può erogare questa formazione anche in modalità online. Ci tengo a dire, sia in forma sincrona che asincrona. Sincrona significa live, quindi con interazione tra docente e tra discenti, ma la lezione viene anche registrata, per cui in ogni momento il discente la può riascoltare e rivedere. Mi chiedeva il sito, sì, è www.rombusinessschool.com, con le versioni sia in inglese che in italiano. Da un punto di vista invece di strumenti e siti dove poter trovare l'opportunità, devo dire che oggi, diciamo, uno degli strumenti, delle piattaforme più utili e, diciamo, più efficaci si dimostra essere LinkedIn, il social network dedicato quindi alla professionalità, dove tutti i datori di lavoro oggi pubblicano le proprie offerte e dove svolgono le ricerche. In questo momento di emergenza sanitaria, per l'impatto del coronavirus e per il futuro, come effettuate la formazione? Quali sono le modalità concrete e come ci si deve iscrivere? Ovviamente stiamo svolgendo tutte le attività in formazione online. Utilizziamo delle piattaforme molto evolute e ci consentono di erogare la formazione innanzitutto in tutto il mondo, perché abbiamo studenti in 140 paesi. In questo fronte stiamo anche dando una mano ai nostri partner internazionali. Sapere che la Rome Business School ha, diciamo, appunto delle collaborazioni un po' in tutti i continenti, e quindi stiamo aiutando anche business school in paesi come il Myanmar, la Nigeria, l'Egitto o l'India a fare formazione online per la prima volta, quindi dando una mano ai nostri amici nel mondo. E devo dire che in prospettiva questa fase di criticità, questa emergenza pandemica che stiamo vivendo, probabilmente cambierà anche il modo di fare formazione, in cui quel tipo di scetticismo, come dire, pregiudizio iniziale rispetto alla formazione online verrà superato, necessariamente un po' tutto il modo di lavorare verrà in qualche modo spostato un po' di più verso questo tipo di interazione online, verso lo smart working. Abbiamo anche fatto una ricerca alla Rome Business School in cui l'Italia, pur essendo ancora indietro rispetto ad altri paesi OCSE nell'adozione dello smart working, ha dei tassi di crescita di questo modello di lavoro e di interazione più alti degli altri paesi, e quindi un trend di accelerazione che verrà ulteriormente, come dire, spinto dall'emergenza coronavirus. E allora continuiamo nel dettaglio e con lo spirito giusto di ricostruire anche la propria professionalità. Quanto durano i corsi e si possono fare anche dei corsi che iniziano adesso? Corso, il master, tipicamente alla Rome Business School dura 1 anno, di cui 6 mesi dedicati pienamente alla didattica, 6 mesi sono relativi ai progetti finali degli studenti e le attività di career service, quindi agli internship, gli stage in azienda e in organizzazione. Ci si può assolutamente iscrivere, abbiamo appena iniziato un intake, quindi una prima un'edizione dei nostri master da pochi giorni, ma sono ancora appunto in corso le fasi iniziali, ci si può ancora iscrivere, alcuni corsi inizieranno a fine aprile, in particolare il Master Executive in Marketing, vendite, il Master Executive in gestione delle risorse umane, e poi normalmente abbiamo un altro, un'altra edizione a fine ottobre. Devo dire, poi ci sono dei corsi brevi al di là di master, sono sempre attivi. Non c'è tempo da perdere veramente nella vita, e particolarmente in questo momento, bene darsi da fare, coltivarsi e formarsi. Mi piace vedere la crisi anche come opportunità, come diceva Kennedy, un'opportunità da non sprecare, per appunto investire in se stessi, prepararsi alla ripresa che inevitabilmente e fortunatamente ci sarà, fornendo appunto delle opportunità di arricchimento professionale attraverso tutti i corsi online, per cui veramente l'incoraggiamento vitale è investire in se stessi. La formazione è veramente la chiave di successo per entrare e crescere nel mercato del lavoro.